Ciao Natali, stavo facendo roba meccanica a casa e mi sta già venendo caldo e devo anche uscire e caldo ce n'è molto di più fuori e quindi sono già in croce. Per carità, c'è una discreta propagazione oggi, Ma stamattina non ho sentito nessuno, ho provato ad andare in manda laterale, non ho sentito nessuno. No, in AM, AM, FM, penso anche banda laterale, io qua la banda laterale non ce l'ho, però credo di aver sentito qualche segnale dall'AM, capito? E che te devo dire? Giornate sempre più calde, pH sempre più forte e quindi niente da fare. Che ore sono? 5:30, mamma mia, fra poco le vuoi. Mangio una gana, però è un dovere questo. Marco, cosa devi fare? Perché? Ah, l'ospedale forse già. Sì. Ah, a proposito, lo sai che lo smartphone ha ripreso a funzionare di nuovo, l'audio, sia il microfono sia l'audio, l'altoparlante principale. Ogni tanto li gira male e smette di funzionare. Cazzo, è successa una cosa grave alle 3 qua. Intorno, cosa è successo? E cerca di capire il tabacchino. Ma tabacchino? Ma qualche spacciatore l'hanno beccato. Oh, cosa grave. Chi cacchio? Ma con te? C'entri tu? Ah, oh, io cosa cazzo c'entro io? Aspetti il telefono lì. È meglio. Chiama quello che vuoi, sia l'uno che l'altro. Ciao. Ah, te la sei culine, eh? Ancora per farmi lo spettacolo. Meno male. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza l'ascolto, becco becco. C'è qualcuno qua? Luca, ci sei? Luca, ci sei l'ascolto? Luca Flipper, ci sei? Giulio, mi ascolti? Ciao Natali, sì che ti ascolto, come no? Perché ho messo l'antenna più bassa, ho messo, solo che ti ascolto basso basso adesso. No, strano, perché mi dovresti ascoltare ugualmente bene, dai. Vabbè, adesso se l'hai abbassata magari c'è il palazzo che mi impedisce di arrivare bene lì da te. Il segnale già è buono, 9, però non la radio è bassa. La radio è bassa probabilmente dipende da me, che magari il microfono ha la batteria scarica, adesso ho aumentato un pochino, non so cosa può essere cambiato. Penso di sì, non so come ti arrivo di segnale. Santiago 8 mi stai arrivando di segnale, per cui però la radio già è discreta, dai. Io magari ho la batteria del microfono, ma mi sentono all'estero, mi sentono addirittura, mi ha sentito anche un momento fa Matera su canale 7. E adesso ho aumentato la potenza, guarda, ho aumentato il segnale, perché ero con 2 watt poco fa. No, Santiago 9 sta arrivando, per cui come mai l'hai abbassata l'antenna? Perché l'hai abbassata? Perché era troppo pericolosa. Era pericolosa com'era, capito? Così non c'è bisogno né di tiranti né di niente. E c'è solo la punta fuori, là. Ho capito. Vabbè, anch'io ce l'ho bassa l'antenna, per cui non è questo il problema. Ma già va bene lo stesso, che se ne frega, intanto ci sentiamo ugualmente, non c'è problema Natalia. E infatti, l'importante è che ci sentiamo. Ci sentiamo lo stesso, non c'è problema. Già va bene Natalia ugualmente. Attenzione canale. canale 10, ci ascoltate in Isola Sarda, cambio. Adesso ho aumentato la potenza, così magari il segnale è un po' più forte, da canale. L'Isola Sarda ti ascolta. Ciao già. Sì, adesso dove fate anch'io Natali, per cui non lo so, anche se l'antenna bassa mi dovreste sentire ugualmente, dai. È entrato Gianni, avanti Gianni. Ehi, allora, buonasera a tutti, dai, cordialità. Natali, tutto a posto? Ho trovato Franco ieri, mi stava dicendo. Ehi, ciao già. E che mazza adesso l'antenna, mi. Prova a vedere quanto mi arriva. Mi guarda, 1, 2, 3. Allora, da 9.30 non sei manco 9.20. A me mi arrivava il 9.30 sul DB, adesso non sei manco 9.20, sei 9.18 esattamente. Ehi, vabbè, là. Ed ero con 2 watt quando ti arrivavo 9.30, adesso ho messo al massimo perché sennò esco troppo basso. Ascolta, te l'avevano tagliato il filo quindi? Ehi, tutto, era tutto sfellato, ha sfregato nel muro, non è stato lui non comunque. Ed era tutto spezzato il filo, infatti l'ho tagliato, gli ho rifatto il PL nuovo, adesso è in bassa l'antenna e il vento non imbiglia, perché l'ho messa più sotto, la bobina è del secondo piano, là. E c'è solo la punta dell'antenna dal tetto, quindi non prende, è bella rigida, ne ho tolto il palo e tutto, è sopra quello da 4 metri e basta. E adesso non disturbare più, sei più bassa. Io te volevo dare il palo, te l'ho detto se lo volevi, che ce l'avevo da 2 metri, da un pollice. E ce l'ho io da 4 metri, è quello che ho io, da, d'acqua, zingato. Ed è da un pollice. Capito? Già è di lusso, adesso è messa bene. Se voglio la posso anche alzare perché è dentro un palo più largo, però è tutto giù, diciamo, quindi posso anche alzarla volendo, però se la alzi diventa pericolosa. Ma se li metti tiranti non si muove più una salita, quell'antenna lì è fatta per flettere, non è che... Se li metti destinati non è pericolosa, poi è leggera come antenna, anche se i gaggi non ti ammazza, dai. E altro che no, il palo è pesante, che è palo d'acqua grosso da un pollice, infatti adesso come apri la botola, il tipo ti ha detto che apri la botola e la mettiamo sul tetto, però la lascio sempre sul palo da 4 metri, non la faccio più alta, così non devo mettere né tiranti né un cavolo. Ehi, ehi, vabbè, vedi tu Natale. Avanti Giulio. Ok già. Sì, ebbene, ieri sera sei andata a ascoltare Tazenda, già. Sì, sono andato. Ho preso anche una bella caduta. Sono andato, era un bello spettacolo veramente, hanno fatto un bel concerto. Ma non mi piace quando cantano in sardo così, no, non capisco le parole, no. Poi in troppo forte, era troppo forte, ed ero distante mi da dove erano loro. Sì, vabbè, comunque, sono bravi, non ci sono dubbi, sono bravissimi. Però a me cantare in sardo in quel modo non capisco l'accidente di quello che dicono, capito? E allora, però diciamo che l'armonia c'era ed era bella, non è che non era bella, però era troppo forte io ed ero abbastanza lontano, comunque andava bene. Stasera non lo so, stasera forse ci sono anche dei canti sassarese, ci dovrebbe essere Sanna, quant'altro Sanna ci dovrebbe essere che canta in sassarese sicuramente. Vabbè dai, io vi lascio che devo andare a farmi dare lo so Gianni, ci sentiamo eventualmente più tardi se coincide, dai, adesso devo andare a farmi dare lo so e poi vedremo forse posso rientrare o meno. Ciao già, ci sentiamo alle prossime. Ciao Natalia, alle prossime, dai, chiudo, ascolto finale, chiudo, vai Natalia. Gianni, dici che non lo sento a Giulio, non lo sento più. Giulio, ha detto che non ti sente più Natalino, dai, ti saluta comunque. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buona serata, tra poco me ne vado anche perché devo fare la doccia a Natalino. Sono tutto appiccicoso, ero addormentato e mi sono andato tutto sudato. Va bene, ciao. ciao, già buona doccia, allora dai. Adesso spengo tutto, tanto non mi trambi nessuno del macello. Forse ho fatto male a ripiazzare l'antenna. E già entrano le persone, chi l'ha detto che non entrano? Adesso mi posso fare 5 minuti ancora, poi vado e magari in quel frattempo lì entra qualcuno, cosa c'entra? Non è che non entrano, già entrano. Sì, ma se vedo che non entrano nell'assoluto del tutto. A Giulio non riesco a sentirlo addirittura adesso. Poco fa ci stavo parlando, ma evidentemente si è scaricata la batteria. La batteria di che cosa? Del microfono. Poco fa lo sentivo basso basso del radio, perché di segnale arriva basso qua a Giulio. Non arriva come segno. Arriva a Santiago 9, però niente radio. Ui ui. Vabbè, a me Giulio arriva forte, io lo sentivo benissimo a Giulio, non lo so se era prima o dopo che ha messo la batteria, ma lo sentivo bene. No, io lo stavo sentendo, poi ha ripreso quando stava parlando con te e non lo sentivo più, sentivo bisbigliare, quindi era incomprensibile. Interdiscia, coppia vuole dirottare l'autobus verso Sorso, passeggeri esasperati arrivano i carabinieri, l'uomo e la donna sono stati arrestati per lesioni, oltraggio e minacce. Vabbè già, se stanno a fare la luce io me ne faccio il QRT, ci sentiamo alle prossime, dai. Ehi, va bene, Natalia, ciao ciao.